Boys and girls, your attention please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa. E un saluto da Drago. Oh, è lunedì, cominciamo bene. Eh sì, cominciamo bene, sei bravo, perché qui è lunedì, fioccano i compiti, ormai ma siamo già a regime, i professori stanno dando compiti su compiti, ma a casa e in classe. Col sorriso giù sorriso compiti. Te l'ho spento subito. Ma perché? Perché? Sei perché crudele. Così, lunedì matematica oltretutto, quindi sono dolori. Lunedì matematica. Cos'è, come venerdì pesce? Sì, come giovedì gnocchi. Mercoledì geografia. No, lunedì matematica. Lunedì matematica. Fai tu i compiti e io li copio. Poco da copiare, io non so niente, peggio di te, poi matematica. Ma chiedi ai tuoi genitori, sì, te li genitori, fai fare, fanno tutti così e poverini, perché i genitori ne sanno meno dei figli. Beh, lo so, ci fanno anche i quiz in TV, no? Sei più bravo di un ragazzino di quinta? Ecco, la risposta di solito è no. I poveri genitori, quando arriva il bambino di quinta anche con il compito di matematica da fare a casa e chiede un aiuto, non i genitori fare. Dicono sì sì, adesso ci pensiamo noi, ecco, e poi si chiudono in camera da letto. E cosa fanno? Fanno quello che farebbero i loro figli, cioè vanno su Google. Su Google oppure anche su siti apposta, siti per i genitori in difficoltà con i compiti dei figli. Proprio tipo, una categoria. Sì, la girandola.it. Tu vai lì e c'è Tix, che è un tipo con la barba al quale fai le domande. Chiedi a Tix. Tipo, Tix, come si fanno le divisioni a due cifre? Io sono andato a vedere, però non ci sono queste domande. Ah, di no. Solito c'è: sono un insegnante che lavora dal 1968. Quando potrò chiedere la pensione? Ma come? Oppure, mio marito insegnava filosofia ed è morto 10 anni fa. La pensione di reversibilità può essere trasmessa anche e Tix li manda. E Tix poverino è lì che dice: io non posso rispondere a queste domande, io sono qui per insegnare come fare gli esercizi. Infatti. E quindi li rimanda su altri siti. Tipo? No, tipo non lo so. Io però sono andato su piccolimatematici.it perché oggi lunedì matematica. E lì ho trovato il drago tontolino. Ah, vedi? È giusto. Il drago tontolino con gli occhiali rotondi, sì, ci sta bene, che mi ha insegnato un sacco di cose. Tipo? Ci sono dei giochi con i fiammiferi, tu devi fare il triangolo, il quadrato, insomma, io Sì, i classici giochi che si fanno in pizzeria quando aspetti la pizza. Cosa c'entra la pizza? Pizzeria, no? Sei lì che non sai cosa fare con i fiammiferi o con gli stuzzicadenti, fai giochini, due triangoli, fai tre triangoli. Io comunque queste cose qua le uso un po' per tenermi allenato, quindi vado con il drago tontolino. Non va bene quella roba lì, devi aggiornarti. Drago tontolino. Ma no, appunto, tontolino lo dice la parola stessa. Dovresti usare i brain trainers. I brain trainers, tutti quei videogiochi che servono per tenere allenato il cervello, come questo, no? Oh, signor, dai, dai, proviamo. Ma guarda. No, io non voglio mettere alla prova la mia intelligenza. Prova. Mi basta quella che ho. Adesso tocca a te. Vai. È il momento di allenare il cervello. Vedi? Si tratta di una serie di veloci esercizi mentali studiati apposta per tenere il cervello in allenamento. Se è troppo veloce. È stato ideato per essere giocato solo pochi minuti al giorno. È un gioco. Sì, ma quindi come funziona? Come funziona? Innanzitutto devi determinare il punteggio iniziale, cioè l'età del tuo cervello. Quanti anni ha il tuo cervello? Ma come quanti anni ha il mio cervello? Una domanda, quanti anni ha il tuo cervello? Ha la stessa età della testa in cui è contenuto. Ma non è vero, non è l'età biologica, è proprio qui che sta il quiz, no? Cioè? E cioè devi mettere la tua età... non ho capito bene neanch'io. Vabbè, ma ai miei tempi non c'era effettivamente tutta questa roba. Ai miei tempi ci si allenava con il grillo parlante. Quello che diceva... Scrivi e premi controllo. Ti mettevi lì, scrivevi la parola e il risultato immancabilmente era... Idiota. No, vabbè, no, a volte però io vincevo anche. Ah sì? Hai vinto. Idiota. Vabbè, che in Italia la matematica non la impari più nessuno è cosa assodata, e la si può anche vedere dai conti dello Stato che non tornano mai. Non tornano mai, poi però se guardi il bambino premier Berlusconi che va in televisione dal bambino Vespa e fanno su un casino con i miliardi, milioni, le lire, gli euro, senti. 60 miliardi di vecchie lire, quindi 30 miliardi di euro attuali. Quindi non ci sono dubbi, forse 3 miliardi di euro. Vedi, il bambino Vespa corregge. 60 miliardi di lire sono... 3 miliardi di euro. No. 3 miliardi, 3 miliardi di euro sono 6 mila miliardi di lire. Sono 30 miliardi di lire. 60 miliardi di euro. Niente, ci andrebbe un bel brain trainer per lui. Vabbè, oppure ci vorrebbe un precettore. Sai come si faceva una volta? Non so, prendi il più grande matematico italiano, lo metti lì e gli insegni la matematica. O Di Freddi. Al bambino Di Freddi per te è il più grande matematico italiano. Ma come? Scusa, dai, è il più famoso di tutti senz'altro. Lui è sempre lì che dice Dio non esiste, i logaritmi. È preso dalla matematica in ogni momento della sua vita. Anche quando ordina la pizza. Ma ancora con sta pizza? Qui non si mangia mai. Pronto? Buonasera. Avrei bisogno ne ho una pizza. Dentro questa pizza ci devono essere radici quadrate, se possibile. Mettiamo questa conversazione fra parentesi, graffa, se possibile. Per alla meno due, dunque. Dovrei avere una pizza per due persone meno due. 4, 3, 2, 1, go! Oh, ricreazione, adesso mi mangio. Ma cosa stai mangiando lì? Merendina. Ma fanno male le merendine, capa, ma quante volte te lo devo dire? Lo diciamo a tutti, se tutti fanno bambini. Male perché le vendono allora, scusa. Vabbè, no, perché non sono velenose, però sarebbe meglio pane marmellata, pane prosciutto a quest'ora. Senti, no? Io non sono un bambino, cioè sono un bambino, ma fisicamente io reggo come un adulto. Gli adulti ormai sono abituati, drago, fumo, alcol, grassi, bisogna che mi faccia una merendina, dai. Diciamo che il problema sono i batteri, in effetti, per noi. Non ma è che tanto... batteri? Nelle merendine? I batteri nostri occidentali, di noi persone così della parte ricca del mondo, abbiamo dei batteri nella flora intestinale non sufficienti a combattere determinate malattie. Perché qui, ad esempio, in Burkina Faso, ho letto da uno studio di esperti che i bambini hanno tutti dei batteri intestinali che li salvano dall'obesità. Sì, ma non dalla morte per denutrizione. Qua invece guardati intorno, guarda quanti bambini ciccioni. Tipo il nostro amico, il bambino Alberto. Ciao. Ecco, anche ciao. Tu stai mangiando una merendina. Vabbè, per forza, la ricreazione, sei tu che sei uno stacanovista. Albertuccio, lo sai che ti fa ingrassare la merendina, vero? No. Sì che ti fa ingrassare la merendina. Ma io non lo sapevo che la merendina fa ingrassare. Però so che è buona. Infatti, dillo a Drago, è lui che è contro le merendine. Perché sei contro le merendine? Perché sono piene di coloranti e piene di conservanti. Ti basta come spiegazione? E perché sono piene di conservanti e di coloranti? Perché senza coloranti avrebbero un colore da togliere l'appetito e senza conservanti bisognerebbe mangiarle in giornata come il pane, nessuno le comprerebbe, insomma non sarebbe un business. Quante robe sai? Ecco. Allora perché se sono piene di conservanti e coloranti tu non vuoi mangiarle? Ma quante domande fa adesso? E per forza, è un bambino Drago, no? È curioso, è normale. Se continua così mi chiede pure perché, si dice perché quando si fanno le domande. Senti, scusa, ma perché si dice perché quando si fanno le domande? Hai visto? Vabbè, è un bambino. Vabbè, Albertino, ma qui all'asilo non vi hanno insegnato a mangiare sano? Sei lì che mangi la merendina, mi fa veramente specie. Ma aspetta che deglutisco. Ecco. Ma sano, tipo i finocchi cotti? Ecco, ad esempio, i finocchi cotti, quelli sono sani. Ma fanno schifo. Ha ragione, fa schifo, dai, meglio merendina, vuoi un pezzo, è buonissima. Eh sì, poi almeno nelle merendine ci sono anche i giochini regali. Le macchinine. Con i finocchi cotti invece non c'è niente, neanche un filo d'olio. Vabbè, adesso lasciamo perdere se puoi i finocchi cotti e pensa invece alla tua povera flora batterica, pensa, poverina, bombardata da cibi artificiali, troppo grassi, troppo zuccherati, il glutine, le 123, tutte ste schifezze. Ma a chi è che devo pensare? Alla flora batterica. La flora batterica. E chi è? Una bambina nuova? Ma no, Albi, dai, no. Alberto. Vabbè, però anche tu cosa pretendi, flora, scusa, batterica. È un bambino dell'asilo, flora batterica è difficile, parlane con un adulto se mai. Sì, bravo, dove li trovi gli adulti adesso? Comunque qui, una volta alla settimana, c'è una signora che insegna queste cose qui, di alimentazione, eccetera, eccetera. E cosa vi insegna? Solo che lei pesa 215 kg. Insomma. E poi, pesa così tanto e poi ci dice, mangiate finocchi cotti, mi raccomando, mangiate finocchi cotti, È anche un po', come dire, insistente. E intanto lei mangia tutto meno che finocchi cotti, perché sennò non sarebbe così grassa. Ma che ne sai, magari questa poveretta ha una disfunzione ghiandolare, ingrassa, indipendentemente da quello Vabbè, che mangia. Sì, si dice, no? Non sono grasso, ho le ossa pesanti. Sì, però io intanto non l'ho mai vista mangiare finocchi cotti, Magari se ne mangiassi un po' sarebbe anche un po' più magra. Però vabbè, Alberto, anche tu non è che sei proprio una silfide, Certe parole con me non si usano, Ma che parole? Siamo all'asilo? Cosa? Lì si fide. Ma no, si fide. No. Silfide, silfide. La silfide è uno spirito del vento e dei boschi, caro Albertino. Ed è così sottile che quando si deve dire che uno è magro si dice sei una silfide. Vabbè, Tito, dai, sto spiegando mitologia al bambino Albertino. Appunto, dai, bisogna stare sul pezzo, cappa. I batteri, la flora intestinale, i bambini obesi. Bambini forza. Obesi, appunto. Eccone qua uno, basta così. Dice a me. Un po' pingue lo sei, no? Guardate che io sono così adesso, come mi vedete. Ma poi quando cresco dimagrisco. Sì? E chi te l'ha detto questo? È la signora. La signora quella dei 115 kg? 215. Allora se l'ha detto lei. E tu ti fidi? Se dice così sarà vera, no? Scusa, ma lei crescendo è arrivata a pesare 215 kg? Scusa. Sì, ma lei non mangiava fino a chicotti. Io invece sì, purtroppo. Chiedo asilo. torniamo domani. E scrivete al drago tontolino a chiedoasilo@radio24.it. Chiedo asilo.